Francesca Rosso, benvenuta su Blogosfere, autrice del saggio Cinema e Danza. Nell'introduzione, nelle prime pagine, dici che cinema è danza, con l'accento. Che cosa significa questa frase? Allora, questo è stato un po' il risultato di una ricerca. Io non sono partita con l'idea il cinema e la danza, assolutamente. Sono partita con l'idea di vedere cosa c'entrano cinema e danza. Io ho una grande passione sia per il cinema, sia per l'uno che per l'altro, e quindi ho cominciato a cercare di capire che cosa porta in più la danza al cinema. Facendo questa ricerca mi sono accorta che per la maggior parte dei film, adesso proprio parlare di tutti no, sicuramente, però per la maggior parte dei film la danza è il cinema e il cinema è la danza, nel senso che il cinema utilizza la danza per alcune sue funzioni narrative, per raccontare gli stati d'animo, per amplificare delle emozioni, eccetera, ma soprattutto il movimento, quindi la danza, in qualche modo è naturalmente connesso al cinema. Cioè il cinema non esiste se non c'è il movimento, se no sarebbero fotogrammi statici, sarebbe fotografia. Allora quello che in qualche modo unisce i 24 fotogrammi che scorrono al secondo, noi potremmo dire che è danza, in qualche modo, già solo per questo motivo. Poi c'è tutta una danza all'interno dell'inquadratura, una danza del movimento dei personaggi, una danza delle luci, una danza della scrittura. Il cinema è danza per tantissimi aspetti, anche nei film in cui la danza non mette piede. Mi vengono in mente i film di Leni Riefenstahl, per dire, quelli sulla Wehrmacht, eccetera. Sono film in cui vediamo delle parate militari, montati, coreografati, esattamente come una danza. Altra cosa che è danza è il montaggio, il modo con cui il cinema viene costruito, quindi l'evoluzione delle sequenze, eccetera. Questo è un'altra forma di danza, anche se la danza non c'entra in nessun modo. Quindi io sono partita dalla cosa più semplice, cioè sono partita dalla danza nel cinema, e quindi le scene di ballo. Allora uno comincia a pensare al Gattopardo, faccio per dire, al musical ovviamente, al cartone animato. Sono partita da lì e poi poco per volta mi sono distaccata da quella situazione lì più facile per andare a scoprire dov'era la danza. Nei film dell'avanguardia, per esempio, non c'è trama, non c'è niente, ma c'è la danza, che c'è la costruzione all'interno dell'inquadratura, ma all'interno del film, che è fatta su basi musicali, per esempio. Anche già solo il seguire la musica o il creare una musica attraverso il film è danza, in qualche modo. Quindi per questo è un po' una provocazione, chiaramente, non è vero che il cinema e la danza, se no non sarebbe più cinema, però è un po' una provocazione ed è un modo per aprire un po' gli orizzonti su una cosa che va al di là di quello che si vede normalmente. Insomma. Questo è stato un po' il tentativo. Un ignorante della materia pensa al cinema, danza uguale musical. Dice, nel libro il musical c'è ovviamente, ma è una parte non fondamentale, cioè non costituisce l'ossatura del libro. No. No, anche perché il musical ovviamente è cinema e danza, sicuramente, ed è la cosa più studiata, cioè tutte le ricerche che ho trovato sul cinema e danza ovviamente partono dal musical, che sia il musical recente, che sia Bollywood, che sia il musical egiziano, per dire, o che sia il musical classico, con la tradizione Ginger Rogers e Fred Astaire. È chiaro che lì la danza è presente proprio in ogni frammento del film, e quindi è chiaro che quello è. Però è più interessante andare a vedere anche altre situazioni. Per esempio, il cartone animato. Nel cartone animato si balla tantissimo. Si balla perché i personaggi si muovono sulla musica come fossero una danza. E il fatto che si possano muovere con tempi non realistici, non da umani, ma più lenti, più veloci, di colpo, allungandosi, accorciandosi, rende questa una danza. Quindi, per esempio, il cartone animato è un'altra caratteristica, cioè è un'altra possibilità che il cinema ha. I film dell'avanguardia, abbiamo citato prima, i film dell'avanguardia sono tutti molto danzati, ma addirittura il cinema, prima che nascesse il cinema, era già danzato, perché se noi pensiamo ai soggetti che sceglievano le lanterne magiche, piuttosto che ai soggetti che sceglievano tutte le varie apparecchiature, il fenachistiscopio, tutte queste apparecchiature che cercavano di riprodurre il movimento, chiaramente andavano a prendere soggetti già in movimento, e quindi l'acrobata, il ballerino, tutte figure che avessero già in sé la danza. E quindi il cinema e la danza hanno camminato, diciamo, parallelamente da sempre, e continueranno a farlo, perché la danza ha un sacco di valenze che sono interessanti per il cinema. Per esempio, di solito la danza viene un po' utilizzata per dare attenzione al corpo. Allora, il cinema tendenzialmente è cinema di parola, si parla molto, ci sono i dialoghi strutturati, sceneggiati, fatti. Quando si utilizza la danza invece c'è una sospensione della parola, cioè diciamo una sospensione della razionalità. Semplifico un po'. E quindi se noi vediamo Ginger Rogers e Fred Astaire che litigano, perché c'è il solito battibecco, e poi li vediamo danzare, noi capiamo già che si innamoreranno, perché in quel momento lì in cui ballano non ci sono più filtri razionali, c'è solo il corpo che si muove, si esprime, il corpo non mente, la mente invece, come sappiamo, mente, e quindi noi già sappiamo che si innamoreranno. Poi magari continua il battibecco, però nel momento della danza noi abbiamo, vediamo oltre, riusciamo a capire qualcosa in più che neanche il personaggio sa ancora in qualche modo, no? E quindi questa è un'altra funzione interessante della danza. Alle volte ha una funzione molto estetica, è molto bella da vedere, quindi utilizziamola, cioè non è che tutto abbia un significato così profondo, alcune cose sono proprio più più una, come dire, un diletto, un divertimento del regista, un attimo di bellezza. Sto pensando a, prima abbiamo citato il Gatto Pardo, quel ballo di una bellezza incredibile, perché sono belli loro, perché è bella la sala, perché è bella la situazione, bello tutto. È anche vero che ha in sé questa decadenza della situazione Gatto Pardo, insomma un mondo che sta finendo, un ballo che finisce, diventa una metafora, insomma. In altri film ha proprio ancora altre funzioni, cioè sempre, non so, ad esempio nel western, uno non pensa che ci sia tanta danza, io che non amo molto, in quanto signorina non amo molto il western, ho cominciato a guardare se c'era qualcosa, e ce n'è tantissima di danza. Quindi la danza ha un'altra funzione ancora, la danza della comunità, la coesione della comunità, il momento sociale proprio di condivisione avviene passando per la danza, che è un momento di convivialità, di stare insieme, di condividere gli stessi valori. Valori condivisibili anche dal pubblico femminile, insomma la cavalleria è una cosa, la danza è un'altra. Però nella cavalleria la danza ha il suo spazio, sono balli codificati, sono balli, però ci sta, come sta in altri film, sempre sul genere western se vogliamo, ma di tutt'altro genere, stavo pensando a Balla coi lupi, dove la danza è di nuovo una danza di appartenenza a una comunità, in questo caso stiamo parlando di indiani, e poco per volta il nostro personaggio si avvicina a quella realtà, a quella comunità, anche attraverso la danza, che è un modo di comunicare in fondo, no? Se qualcuno fosse quasi totalmente digiuno della materia, c'è un autore o un film che consiglieresti per partire? Allora, io non posso non consigliare, dunque, se vogliamo fare proprio le cose come vanno fatte, sicuramente il musical bisogna vederlo, cioè un film come Cantando sotto la pioggia rimarrà sempre una pietra miliare del musical e del cinema in generale. Dico di più del cinema perché in realtà è un film sul fare cinema, in realtà nel film la situazione contingente è il passaggio dal muto al sonoro, quindi situazione di grande crisi per gli attori, per tutto quanto, che è un po' stato il passaggio dal cinema alla TV invece negli anni 50. Ed è un film in cui la danza ha una funzione assoluta, è protagonista assoluta, ci svela un sacco di cose ed è proprio di una bellezza unica, e tra l'altro è un film che ha un valore incredibile perché è una storia della danza, della musica e dell'America, come si è costruita l'America, quali sono i suoi valori, l'integrazione razziale di questi personaggi, abbiamo l'irlandese, sono tutte le basi proprio della danza e del musical, quindi quello è sicuramente da vedere. E poi io ho dei film nel cuore, diciamo così. Secondo me un film come Flashdance, per esempio, non è un filmone che ha una grandissima valenza, diciamo, dal punto di vista cinematografico, però sicuramente per la mia generazione, per esempio di future ballerine, aspiranti ballerine, è un film che si rivede sempre volentieri, dove la danza ha un'altra funzione che è quella di riscatto sociale, che è un po' la stessa cosa che succede a John Travolta, insomma al Tony Manero, la danza come riscatto sociale, attraverso la danza io posso diventare qualcosa di diverso da quello che sono, perché ci metto dentro il mio talento, la mia passione, il mio tutto quanto, e io non sarò più quello che sono, la danza mi permette di sognare, di aspirare a un'altra vita. Quelli secondo me sono film che anche un ignorante può vedere, sì, okay. Assolutamente. Se potessi costruire un cast perfetto per un film, per un musical o comunque un film in cui la danza è al centro, regista, attore, attrice. Possiamo usare tutti i tempi? Sì, tutti i tempi. Tutti i tempi, allora sì, allora c'è da divertirsi. Allora, userei un regista che abbia un grande senso della composizione. Potremmo usare un Ken Russell, per esempio, un grande. potremmo usare un regista che è stato ballerino anche, perché poi ci sono anche alcuni registi che sono stati ballerini e alcuni ballerini che sono diventati registi, quindi sicuramente quelli a cavallo sono quelli che... E poi vabbè, io ho questa passione per Gene Kelly esagerata, e quindi sicuramente userei lui. A suo fianco. Una fanciulla, potremmo usare invece una fanciulla... Ma userei una fanciulla che viene da un mondo completamente diverso, magari da Bollywood, un modello proprio indiano, magari sì, fare proprio un miscuglio come si deve. Come hai lavorato al libro, qual è la struttura che hai scelto? Allora, io ho lavorato così, per cercare di dare un criterio, visto che man mano uno comincia a vedere film e si accorge che la danza è dappertutto, ho cercato di scegliere un criterio storico. E quindi ho ripercorso la storia del cinema, proprio partendo dal precinema e arrivando fino a Tarantino, insomma fino ai giorni nostri, scegliendo dei momenti particolarmente salienti, quindi i russi, le avanguardie storiche, i tedeschi, il musical, il cartone animato, scegliendo dei storie ma anche un po' genere in alcuni casi, la nouvelle vague, insomma momenti più importanti della storia del cinema, e sono andata a cercare all'interno chi usava la danza e come, con quali funzioni. E questa è stata la prima parte. In realtà mi stava stretta, nel senso che ci sono, man mano che uno lavora su un tema del genere si accorge che è così vasto, si accorge che ci sono varie figure che per esempio non sono incasellabili da nessuna parte. Allora ho avuto la necessità di fare una seconda parte un po' più libera, un po' più creativa, diciamo così, dove anziché seguire la storia ho seguito un ballo, per esempio. Io ho individuato il tango, perché il tango appartiene a tutta la storia del cinema, da partire dai Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, a partire da Rodolfo Valentino fino ai film di Sally Potter, Lezioni di Tango, insomma. Il tango è proprio un ballo cinematografico per tantissimi motivi, poi se vuoi ti spiego bene perché. Adesso ti finisco la seconda parte. Poi, come diciamo prima, c'è una parte sui registi che sono passati alla coreografia, che sono, alcuni ci sono, alcuni coreografi che sono passati invece alla regia. Per esempio, tutto questo lavoro è partito dalla tesi che avevo fatto 1000 anni fa, che era una tesi sul film fatto da Pina Bausch, la coreografa tedesca. Lei ha fatto un film che si chiama Il Lamento dell'Imperatrice, che è un film non narrativo, particolarissimo. È un film destrutturato, un film difficile, difficilissimo, che l'abbiamo visto veramente in pochi. Però è un film che utilizza la danza ed è un film fatto dalla visione di una coreografa, che ha una visione sicuramente diversa da un regista, cioè la danza esiste solo nel suo farsi qui e ora, nell'essere presente. Invece il cinema si registra ed è riproducibile. Poi che uno se lo guardi al cinema in DVD, comunque una volta codificato è per sempre. Invece la danza no, la danza è un'arte per sua natura, che esiste solo nel suo essere. E quindi l'approccio anche di un regista alla coreografia o viceversa, di un coreografo alla regia è diversa, perché è una delle possibilità in più. Sicuramente, per esempio Pina Bausch diceva, per me è stato come avere a disposizione un palcoscenico più grande, che è così. Ma non solo più grande anche come spazio, come tempo, perché tu puoi mettere insieme una scena girata d'inverno e una d'estate e appiccicarle. Chi te lo vieta, cosa che invece in teatro non diventa molto molto complicato, e quindi sicuramente amplia molto gli orizzonti. In più ho cercato di raggruppare per alcune tematiche delle tipologie, diciamo così, di film. Prima parlavamo del film di riscatto sociale, ecco, la danza come riscatto sociale è uno dei temi che io ho individuato, è molto presente nella storia del cinema. Così come è presente la storia della ballerina che sposa il lord, della ballerina tendenzialmente di provincia, carina ma non è anche tanto promettente, che fa di tutto per fare carriera, per avanzare, per insomma una storia poi abbastanza classica in generale, direi che non è niente di nuovo. C'è la danza tragica. La danza tragica, un film come Scarpette Rosse, la danza che è un'ossessione che porta addirittura alla morte, è un'altra possibilità. Insomma. Quindi ho cercato di raggruppare alcuni filoni di cinema in cui la danza sia sempre protagonista e svolga funzioni molto diverse, perché la cosa interessante, secondo me, è andare a scoprire che cosa porta la danza al cinema, che significati si porta dietro, come nel caso del tango. Il tango si merita un capitolo tutto da solo, perché il tango ha una valenza incredibile, perché è un ballo strutturato, è un ballo di improvvisazione, però è un ballo che ha delle regole molto forti. È molto bello da vedere al cinema perché ha in sé dei valori di sensualità, di seduzione, di corteggiamento, di coppia, e soprattutto ha la divisione dei ruoli molto, molto precisa, molto semplice, molto chiara. Allora, l'uomo è quello che conduce, propone, conduce, e la donna invece è quella che accoglie e seduce, diciamo così. Quindi rende più gradevoli i passi decisi dall'uomo in qualche modo. È chiaro che c'è un discorso di alchimia, di affinità, di coppia. È un po' una metafora anche della vita, il tango. Però sicuramente il fatto che abbia questi valori così, così già codificati e così chiari per tutti, questa divisione dei ruoli così, così precisa e così importante e definita, fa sì che si possa anche parodiare, per esempio. Mi viene in mente a qualcuno piace caldo, dove il tango svela in realtà che c'è un uomo travestito da donna che sta ballando con ruolo da donna, però a un certo punto gli viene da guidare perché il tango è così, e quindi può essere anche usato per smascherare, per comunque giocare ai ruoli, giocare di più nel ruolo del maschile e del femminile. C'è invece un ballo che ritieni troppo poco sfruttato dal cinema? E quindi quasi tutti sono poco sfruttati, e poi alla fine, a parte il tango. No, c'è anche tanto valzer, ma il valzer è meno affascinante secondo me, perché ha meno questa presenza anche della parte conflittuale, perché il valzer è bello, esteticamente molto interessante, ma non racconta mai un conflitto, e quindi è un po' più esteticamente lezioso. Cioè, il tango può essere tante cose, può essere... Forse non è tanto sfruttata, vabbè, la danza orientale per esempio non è tanto sfruttata, se non in piccole parti, viene in mente couscous eccetera, non è tanto presente, se non proprio nei musical egiziani, dove tutto danza del vento. Se no balli così, devo dire balli da sala, alla fine sono tutti un po' messi insieme, forse è davvero qualcuno che si potrebbe sfruttare di più, non lo so, non penso che sfruttando di più la salsa... Sì, succederebbe qualcosa di meraviglioso, perché sono balli un po' più, adesso è brutto dire superficiali, però hanno meno storia dietro, hanno meno tradizione, sono balli comunque anche recenti, ma anche il tango, certo. Sono tutti balli nati a fine 800, non è che abbiano una tradizione come il balletto classico, però forse sì, forse il fatto che non siano stati sfruttati è perché non si portano dietro delle valenze così... Si potrebbe provare, suggerire a qualche regista di utilizzare dei balli diversi e vedere cosa succede. Ultima cosa, la situazione oggi com'è? Cioè, che film sono usciti interessanti da questo punto di vista, dopo ovviamente la pubblicazione del libro? Io sono ossessionata dalla danza. Quali autori sono da seguire? Io sono ossessionata, da quando è uscito questo libro ovviamente il mio quadernino su cui segnavo, cioè ogni volta che vedo un film ci vedo delle cose. No, io sono tristissima perché vorrei inserire la ghianda, il ballo della ghianda dell'era glaciale 3, c'è questo tango pazzesco, bellissimo, il cartone animato. Sicuramente il cartone animato è molto da seguire, perché la danza sarà sempre più presente, cioè nel cartone animato la danza c'è sempre stata, però con le nuove tecnologie, col 3D eccetera, la danza sicuramente diventerà ancora più esteticamente accattivante e quindi sarà ancora più presente, quindi sicuramente l'animazione, mi viene da dire l'animazione. E di altro vedremo, fiduciosi.